Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai Figli di Enea. Anche questa sera vi raccontiamo storie di italiani con radici altrove. In questo caso abbiamo una scrittrice, pittrice, illustratrice italo-indiana. È nata a Milano e ha origini appunto per famiglia indiane. È laureata in architettura, è giornalista ed è appunto una scrittrice. Gabriella Curuvilla, benvenuta, buonasera. Buonasera. Parliamo di un libro, Maneggiare con cura, per Morellini Editore. Un romanzo proprio, un romanzo che si dipana intorno all'India e a Milano. Ne andiamo a parlare fra pochissimo, ma prima di farlo affrontiamo con lei un tema che secondo me è giusto affrontare, perché è l'attualità che ci porta ad affrontarlo. Far uscire un libro ai tempi di coronavirus non è facile, no? Tra l'altro la data di uscita è un po' slittata e io so che questo è un momento difficile per gli scrittori, per gli editori, per le presentazioni e anche per il modo in cui si reperiscono i libri. Allora, pubblicare un libro durante il coronavirus pensavo che poteva essere il titolo del mio nuovo romanzo, immagino tragicomico. perché non è stato facile. No, perché ti trovi sospeso tra due realtà. Da una parte un romanzo su cui ho lavorato per anni e a cui tengo moltissimo e che non vedevo l'ora che uscisse, ed è uscito proprio in un momento in cui un'uscita quasi inesistente, se non nel virtuale, nel senso che per adesso è acquistabile soltanto online, e quindi ti manca proprio la materialità del fatto. Io addirittura non ce l'ho nemmeno in mano. È come avere un'idea di aver fatto qualcosa che forse ci sarà, ma che in questo momento non c'è. Cioè, sì, c'è nel momento in cui mi faccio arrivare un omino che me lo porta, però appunto in questo mondo altro in cui siamo tutti sprofondati. Quindi esiste comunque la versione ebook? Sì, esiste sia la versione ebook che la versione cartacea. Entrambi si possono comprare acquistare sul sito Morellini, però appunto il gesto stesso, che è un gesto quotidiano, di andare in libreria, di sfogliare le pagine, di soffermarsi, di decidere, quello non esiste più. C'è un passaggio diretto da appunto la persona chiusa in casa davanti al suo computer che acquista e il prodotto gli arriva. Promuovere in questa condizione è quasi surreale, nel senso che ti sembra di parlare in un'atmosfera veramente di sospensione, dove più che altro c'è l'attesa che tutto riapra, che si possa tornare a quei gesti che un tempo erano gesti quotidiani, anche se dovrebbe esserci di più la volontà e il desiderio di leggere, e quindi questo quasi un paradosso, no? C'è molto tempo per leggere, però i libri nuovi si fa un po' più fatica ad acquistarli. Appunto, per quello che il romanzo sarà tragicomico, il prossimo, intendo, quello che racconterà questa situazione. Quello pubblicare un libro ai tempi del coronavirus. Esatto, se mai uno avrà voglia di raccontarla, perché già è pesante viverla. Insomma, ho letto adesso che ci sono dei saggi che sono usciti sul tema, ma non penso che ti si muoia dalla voglia di andare poi, usciti finalmente da questo periodo, di rileggerselo immediatamente. Cioè, avremo forse più voglia di dimenticare e di riniziare a fare altro. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. C'è, credo, anche un problema al quale tu hai accennato poco fa, dell'evanescenza forse anche di qualsiasi romanzo, di qualsiasi tema, di qualsiasi storia, perché la storia che stiamo vivendo fisicamente in questi giorni è talmente densa, è talmente dolorosa, ma storica, densa, che è difficile prendere in considerazione qualsiasi storia. Io stessa faccio fatica a concentrarmi nella lettura che non sia di attualità. Sì, d'altra parte comunque leggere è sempre stato, almeno per me, proiettarmi in un mondo altro, e forse in questo momento ce n'è anche bisogno di vivere almeno per qualche ora altrove. Io credo proprio che in effetti questa sia la funzione in questo momento dei romanzi, cioè di portarci altrove, un po' come fa anche la fiction, come fanno le serie televisive. E allora affrontiamolo questo altrove, lasciando da parte il momento che stiamo vivendo per un attimo. Maneggiare con cura questo romanzo ha diversi protagonisti e anche diversi spazi temporali. Sì, allora la struttura è quella di quattro personaggi. E ognuno parla con la propria voce, quindi io l'ho definito un romanzo polifonico che è ambientato 10 anni prima e 10 anni dopo, nel senso che questi quattro personaggi si incontrano per caso senza conoscersi e l'unica persona che li vede e che sa che sono tutti e tre, tutti gli altri tre in questo luogo è una ragazza che per hobby ha quello di andare la mattina a caccia di funerali e quindi questa è una mattina di agosto, lei non ne trova, poi finalmente incappa in questo dove ci sono questi Diana, Manuel e Pietro che partecipano per vario motivo perché sono tutti legati in qualche modo alla defunta pur senza saperlo. Una è la figlia che è appunto italo-indiana, un altro è l'ex toy boy e un altro è l'ex studente in quanto la defunta è una professoressa, un artista di origine indiana. La ragazza li ritrae e in qualche modo definisce la loro personalità attraverso i loro dettagli fisici, più che altro per come si muovono, per come si vestono. Poi la storia rinizia 10 anni dopo, sempre in agosto, sempre a Milano, e parte con il racconto della figlia di questa donna morta 10 anni prima e ne racconta la storia, quello che sta vivendo nel momento, in questa giornata d'agosto in cui sembra che non succeda nulla, invece si accalca un incontro dopo l'altro e raccontando se stessa, così come faranno poi tutti gli altri personaggi, parla del presente parlando anche del passato per spiegare quello che sta vivendo raccontando quello che è stato. Quindi c'è anche tutta una parte in cui viene raccontata la sua infanzia e un pezzo della sua adolescenza nei viaggi che le fa in India con la madre. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Infatti c'è molta Milano e c'è molta India e mi verrebbe da dire che c'è molto di lei perché lei, lo dicevamo prima, è milanese ma le origini della famiglia sono indiane. Sì, c'è molto di me perché io attingo, come quasi moltissimi scrittori, al vissuto, a quello che ho visto e a quello che ho sentito, cioè ai fatti e alle sensazioni provate. Poi tutto questo è stato rielaborato in quattro personaggi di assoluta fantasia che però raccontano una Milano che io ho attraversato appunto con il mio corpo e con le mie emozioni e così anche un'India per di cui ho fatto esperienza. Allora ci fermiamo un attimo perché abbiamo una piccola pausa ma poi torniamo con Gabriella Curuvilla e il suo romanzo Maneggiare con cura per Morellini Editore tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, siamo in un torrido agosto milanese dove si intrecciano storie, vite, persone, tra amori di illusioni e disillusioni. Sono quattro i personaggi di questo romanzo, Maneggiare con cura. Noi siamo in collegamento con l'autrice Gabriella Curuvilla. Gabriella, lei ci stava raccontando la struttura un po' di questo romanzo. Sullo sfondo c'è sempre questa figura di questa artista, professoressa indiana. Ho voluto raccontare una donna indiana che si allontana moltissimo da quelli che sono gli stereotipi, più che altro, cioè da quel quella che è la descrizione comune della tipica figura femminile di origine indiana, ma proprio perché di questo io ho fatto esperienza e perché quando mi viene raccontata la donna indiana, o quando leggo della donna indiana, o quando appunto vengo a contatto con le narrazioni degli altri, mi sembra anche che appunto sia stata costruita una sorta di personaggio sulla realtà, cioè qualcosa che è ma non è. E avevo ad esempio che tipo di stereotipi non incarna Ashima, e quali sono questi stereotipi diffusi in Italia? Una figura umana secondaria rispetto a quella maschile, cosa che è, ma questa donna si cosa che è molto spesso in India, ma questa donna si sottrae a tutta una serie di regole e ruoli, se vogliamo, venendo in Italia, e venendo in Italia si allontana completamente dalla sua famiglia e anche da quello che, dalle aspettative che hanno su di lei, e diventa o cerca di diventare quello che è o che vorrebbe essere. Questa trasformazione, che avviene anche spostandosi dal luogo d'origine, però racconta un altro tipo di figura femminile, che è una, a suo modo, una figura di femminile rivoluzionaria, anche se non completamente positiva. Cioè lei, come madre e anche come moglie, non è sicuramente accudente, amorevole, protettiva, è una donna molto concentrata su di sé, sui propri obiettivi, e in certi tratti quasi anaffettiva, che guarda l'India più con gli occhi quasi di un occidentale, cioè aspettandosi una spiritualità che spesso in realtà invece in India non si trova, e che a questa determinata India fa riferimento, o da questa India viene attratta, perché poi l'India reale, l'India dei parenti, l'India delle dinamiche, è qualcosa da cui lei è scappata e che non vuole rivivere. Perché maneggiare con cura questo titolo, e perché questa copertina affascinante, stilizzata, che rappresenta sembra un lavoratore che porta uno di quei carrettini che vengono utilizzati per portare le merci, e dentro c'è un barattolo con un cuore. Io illustro copertine per la collana Varianti di Morellini Editore, che è la collana dedicata alla letteratura, e in questo caso ho dovuto disegnare, mi è stato chiesto di disegnare la copertina del mio romanzo, che è un'impresa a doppio taglio, perché in qualche modo non è neanche lo sguardo esterno per poterlo fare senza essere caricata anche di una sorta di ansia di prestazione su se stessi. E in realtà avevo disegnato questo, che era un quadro, pensando al romanzo, quindi è nato da un dipinto e non da un'illustrazione, e nei miei quadri molto spesso uso delle immagini che fanno parte del quotidiano, appunto, come possono essere i cartelli stradali, in questo modo il cartello del carico, in questo caso il cartello del carico scarico, ma il carico scarico, cioè l'oggetto trasportato, è questo cuore che è ficcato all'interno di un barattolo e quindi è sotto vuoto spinto, se vogliamo, cioè conservato, è lì dentro, non viene, e racconta in qualche modo il modo di vivere l'affettività, di modo di vivere i sentimenti dei quattro personaggi, che è come se fossero sempre avvolti da una membrana protettiva, perché è intorno all'amore, ai sentimenti, cioè è quello il loro lato più fragile, e che quindi hanno bisogno di proteggere, anche se poi entrano, lo mettono in continua relazione con gli altri. C'è India, c'è Italia, e c'è anche pittura e scrittura nella sua vita. Sì, diciamo che io in realtà avrei sempre voluto fare l'Accademia di Brera, che mia madre e mio padre me l'hanno sconsigliato perché così non avrei mai trovato un lavoro, e che quindi mi hanno consigliato di fare architettura. Io gli ho dimostrato che anche facendo architettura uno può trovare dei lavori che sono come, cioè, dipingere e scrivere, che francamente appunto molte volte sembrano più hobby che lavori, perché nel contemporaneo non sono sicuramente due mestieri semplici, facili. E l'architettura però è qualcosa che per me mi ha dato una struttura che poi ritrovo sia nel mio modo di scrivere che nel mio modo di dipingere. C'è una costruzione che poi è la costruzione del romanzo, e che è la costruzione del quadro. Nel romanzo si riflette molto intorno all'età, Sbaglio o c'è una riflessione dell'età e soprattutto dell'età femminile, delle cambiamenti di fronte ai quali una donna si trova a riflettere? C'è un discorso sull'età, nel senso che è come se questi personaggi, tutti quanti, compreso la madre di quella che, se vogliamo, è la prima voce narrante e quindi appunto la donna indiana, hanno nel loro modo di porsi e di vivere un atteggiamento che potrebbe essere definito quello del perenne adolescente, ma è anche quello delle persone che sono continuamente alla ricerca di qualcosa, come se tutto quello che è non bastasse mai e quindi vogliono altro. Ma a un certo punto uno di questi protagonisti dice: nel momento in cui io vado a cercare sempre altro, rischio di dimenticare quello che è per un immaginario che esiste soltanto nella fantasia. E un'altra di queste protagoniste dice che per lei è molto più facile appunto vivere nel mondo della fantasia, perché quello è un materiale maneggiabile a piacere, mentre appunto la realtà è quella che è. Ma una loro difficoltà nel stare nel presente e nel vivere come così un tempo ci si aspettava vivesse un trentenne, quarantenne, cinquantenne, ecco, questo no, è come se tutti loro avessero o sentissero una discrepanza tra quello che è il dato anagrafico e il loro modo di sentirsi e di viversi. C'è molto anche una riflessione intorno alla precarietà, precarietà di lavori, precarietà effettiva delle persone che hanno fra i 30 e i 40 anni. È appunto la trasposizione di un sentire, cioè di quello che vedo intorno a me, di come percepisco la vita appunto dei 30, 40 anni, ma anche 50 anni, e del loro stare, del loro vivere per una condizione che è sì questa sociale, in un precariato che è un precariato lavorativo molto spesso, ma che va a pari passo con un precariato affettivo, cioè appunto quel famoso passaggio del cuore che viene trasportato e che passa da una situazione all'altra, ma che comunque si trova sempre in una autoprotezione, quindi che non si espone mai totalmente o che va cercando una persona con cui poterlo fare ma non la trova e quindi è in perenne viaggio, e in questo perenne viaggio sta anche la sua precarietà. Il libro è in prima persona, ha un ritmo piuttosto incalzante, è cambiato rispetto agli altri tuoi romanzi? No, secondo me è qualcosa che l'evoluzione del mio stile, ma è sempre stato quella. Da una parte sia la volontà di raccontare appunto proprio il mondo contemporaneo, il qui e ora, e dall'altra il desiderio di dare a questa narrazione un ritmo che poi è il ritmo che accompagna la mia vita in qualche modo, se vogliamo l'hip hop o il reggae contemporaneo, cioè una musicalità che si senta nella lettura. Identità, così come viene definita, cioè italo-indiana, non l'ho mai percepita così forte quando ero piccola, se non in delle banalità, per esempio. I parenti, cioè, i miei parenti, mia madre e mio padre, ma poi anche tutti gli amici fino all'elementare, mi chiamavano Marley, che sarebbe il mio nome indiano. E a un certo punto, quando avevo, immagino, intorno agli 8 anni, ero sull'autobus, mia madre mi chiamava Marley perché dovevamo scendere, e io una volta scese le ho detto: ascolta mamma, d'ora in poi mi devi chiamare Gabriella, perché di questo Marley, che mi sembrava strano, tra virgolette diverso, mi vergognavo. Ed era della diversità che quello da cui fuggi il più possibile quando sei piccolo, comunque quando sei da adolescente, hai bisogno di uniformarti in qualche modo, di non sentirti strano, di non sentirti altro. Invece questo strano e questo altro, che comunque è in te, di cui hai fatto esperienza, di cui hai vissuto, dentro cui sei vissuto, poi diventa negli anni un arricchimento, ma non è, ho sempre detto, un arricchimento nel senso che queste due identità fanno un 1 più 1 uguale a 2, ma è un 1 più 1 uguale a 3, cioè qualcosa di altro, di diverso, che viene rielaborato dal singolo. E per me l'India non è stato il territorio di cui io ho fatto esperienza diretta e continua come l'Italia, e quindi la realtà di tutti i giorni, ma è anche stato spesso un mondo molto al di là, l'altra parte di me, ma anche fisicamente distante. E in questa distanza io ho costruito, se vogliamo, un legame che si è intrecciato, un ponte di cui i mattoncini sono stati posti attraverso la pittura e la scrittura, per proprio ricreare un legame, un filo che ci congiungesse. Che impressione ha invece rispetto al momento storico italiano in cui ci troviamo per quanto riguarda gli scrittori italiani di origine straniera? Queste particolarità, questa eccezionalità, queste radici sono state assorbite? Allora, io spero che la direzione sia questa e sia sempre di più questa, nel senso che per me l'importante, leggendo un libro, guardando un quadro, è che mi racconti una narrazione, cioè abbia qualcosa da dirmi. Questo messaggio può avere a che fare con la razionalità, con il mondo emotivo, ma o con entrambe le cose insieme, o sia un mix. L'importante è che, secondo me, quello che è appunto sia letteratura sia pittura, che sono i due ambiti in cui io mi muovo, è che non diventi qualcosa di didascalico, cioè che si vada al di là della sociologia e che appunto diventi materiale artistico su cui lavorare per trasmettere anche una complessità di cui si è portatrici in prima persona. Allora, maneggiare con cura. Dobbiamo dire in libreria, ma in realtà in libreria non ci potete andare, quindi mettetevi in contatto con l'editore Morellini per avere questo libro, oppure scaricatevelo su come ebook in questo periodo di quarantena. Grazie a Gabriella Curuvilla per essere stata con noi questa sera. Grazie a te per la chiacchierata. Grazie anche a tutti voi per essere stati in ascolto di questa puntata ancora in autoproduzione, quindi abbiate pazienza se dal punto di vista tecnico non è tutto perfetto. Anche noi lavoriamo da casa in questi giorni, o comunque con delle difficoltà tecniche. Comunque seguiteci, perché anche sabato prossimo avremo nuove storie da raccontarvi, nuove stimoli magari da potervi far conoscere, e ci risentiamo quindi sulle frequenze di Radio 24 alle 21 sabato prossimo. Buona serata a tutti e buona domenica da Valentina Furlanetto. Ciao.